Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Frey e Olga. Siete di nuovo sulle frequenze di Radio Città Fujiko di Bologna e questa è Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. In questo mese di marzo che volge al termine abbiamo parlato di anni 60 e 70, con i 50 anni dalla rivolta di Valle Giulia, i moti di Reggio Calabria del 1970 letti tramite a schema libero di Lupo Alanca e la letteratura intorno alla lotta armata e le Brigate Rosse nell'anniversario del sequestro di Aldo Moro. Oggi facciamo un salto temporale un po' più ampio, una doppia capriola potremmo dirle, cercheremo di farvi entrare nel clima difficile ma intenso del 1948. Se oggi fosse il 24 marzo 1948 e non il 24 marzo 2018, attenderemo con ansia le prime elezioni della neonata Repubblica Italiana. Aspetteremo una data cruciale che ci sarebbe stata di lì a un mese, il 18 aprile, quando italiani e italiane sono chiamati alle urne. Finalmente con il suffragio universale, una repubblica che ha di poco battuto la monarchia decretando la fine di Casa Savoia, una costituzione in vigore da 3 mesi. Di contro c'è un'Italia in ginocchio, ancora tutta da ricostruire, uscita da un conflitto mondiale e da una guerra civile. Se fossimo nel 1948, l'atmosfera sarebbe quella di uno scontro letale tra comunismo e anticomunismo, uno scontro che forse mai avremmo immaginato solo pochi mesi prima, quando l'assemblea costituente, eletta dal popolo, stava legiferando, senza potere di governo, ricordiamolo, sul testo fondatore della Repubblica Italiana. Ma facciamo ancora un altro passo indietro. Il decreto del 25 giugno 1944, con un'Italia ancora divisa in due, tra l'occupazione nazista al nord e il sud liberato dagli alleati, sotto il governo di Liberazione Nazionale presieduto da Ivano Bonomi, proclama la formazione di una costituente che avrà appunto il compito di redigere una nuova costituzione per il paese, anche se non si sa quale forma avrà il nuovo Stato. Piero Calamandrei disse: c'è dunque nella proclamazione della costituente un necessario distacco dalle istituzioni ancora in vigore, una implicita dichiarazione di sfiducia nel vecchio ordinamento, una inevitabile rottura giuridica tra il vecchio e il nuovo. I cittadini e le cittadine italiane non esercitavano il diritto di voto da più di 20 anni. Anzi, ci correggiamo, le cittadine italiane non avevano mai esercitato questo diritto e in ogni caso nessuno era abituato all'esercizio della democrazia. L'Italia restava un paese diviso, economicamente e politicamente, tra un nord che aveva visto l'ampia mobilitazione resistenziale e il sud quasi subito liberato e che vede pochi, ma importanti, focolai di resistenza. Poi c'è un altro problema: la transizione dal fascismo alla democrazia. Il fascismo cade il 25 luglio 43, rinasce nella Repubblica di Salò nel 44 e cade definitivamente il 25 aprile del 45, lasciando un segno indelebile nella struttura istituzionale del paese. Non a caso molti storici parlano del periodo 45-48 come di una lampante continuità dello Stato, in virtù della quale una grandissima parte degli istituti propri dello Stato fascista diventano la spina dorsale del nuovo Stato democratico, trasferendo con disinvoltura in esso i connotati politici, le gerarchie e le abitudini della burocrazia di marca fascista. Parliamo di settori che vanno dalle forze armate alla magistratura, dagli impiegati ministeriali alla Guardia di Finanza. L'unica epurazione voluta dal Ministero dell'Interno Scelba dal 1948 in poi, e che sarebbe, diciamo, riuscita alla perfezione, sarebbe stata quella dei 15.000 partigiani che erano stati inquadrati nelle forze armate. Un caso eclatante, solo per citarne uno che è forse il più famoso, è quello della rimozione della carica di prefetto di Milano del comandante, ex comandante della Brigata Maiella, Ettore Troilo, un fatto che avvenne nel 1947. Insomma, gli autentici vincitori dell'epurazione saranno gli scrupolosi funzionari di polizia di Mussolini, che attendono placidamente che tutto cambi affinché nulla sia diverso. Ho visto un re. Se lo discuse? Ho visto un re. Ah, beh, sì. Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime. Ma tante che? Bagnava anche il cavallo. Povero re. E povero anche il cavallo. Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah. È l'imperatore che gli ha portato via un bel castello. Anche malò! Il 32 che lui cena. Povero re. E povero anche il cavallo. Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh. ho visto un vescovo. Se la riscuse? Ho visto un vescovo. Ah, beh, sì, beh, ah, beh. Anche lui, ah, lui, sì, piangeva, sì, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano. La mano di chi? La mano del sacrestano. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh. E il cardinale che gli ha portato via un'abbazia. Oh, per Cristo! 32 che lui c'era. Povero vescovo. E povero anche il sacrista. Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh. Ho visto un ricco. Se l'hai scusa? Ho visto un ricco. Un show. Sì, ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh. Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava diretta al vino. Sì, che tutto l'annacquava. Povero tapino. E povero anche il vino. Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì. Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case e un caseggiato di 32 che lui cena. Povero tapin. E povero anche il vin. Sì, beh, ah, beh, sì, dai, chitta, sì, dai, dai, chitta, sì, sì, ah, beh, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Visto un vilano. Sai, scusa? Un contadino. Ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh. Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, ah, beh, il violino, sì, sì, la scatola di cacchi, il radiotransistori, sì, sì, i dischi, sì, di Feltoni, la moglie. E per cos'è? Un figlio militare. Ah, beh, sì, beh. Gli hanno ammazzato anche il maiale. Poi il Purcell. Nel senso del maiale. Sì, beh, ah, beh, sì. Ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava. Ma Salemma? No, il fatto è che noi di là, noi di là, è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Il 2 giugno 1946 il paese era stato chiamato a votare per scegliere quale forma avrebbe dovuto prendere lo Stato italiano, monarchia o repubblica. Non tutti sanno che il referendum fu voluto calorosamente da democristiani liberali, perché ovviamente un plebiscito, sì o no, alla monarchia avrebbe favorito i Savoia, molto, il cui consenso era ancora molto forte al sud e nelle file dei conservatori. Non a caso anche metà della Democrazia Cristiana era di simpatie monarchiche. I conservatori per questo motivo volevano il voto obbligatorio, sperando di favorire in questa maniera per l'appunto la monarchia, mentre la sinistra non voleva né il referendum, sperando di passare direttamente alla Repubblica senza una consultazione popolare, e non voleva neanche l'obbligatorietà del voto, che avrebbe avvantaggiato per l'appunto quella zona grigia che si sarebbe espressa quasi sicuramente in favore del re. Come va a finire è cosa nota, e noi ci ascoltiamo l'annuncio del cinegiornale dell'Istituto Lucio intitolato Referendum. Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi, il Presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. Due contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. La Costituzione della Repubblica, però, malgrado le divisioni nel paese fra monarchia e repubblica, esce dalla Resistenza, dall'esperienza della Resistenza per contiguità temporale, ma non solo. Malgrado la sconfitta dell'Italia, non era stata imposta al paese una Costituzione dai vincitori del conflitto, ma grazie proprio all'esperienza della Resistenza, l'Italia ebbe la possibilità di scegliere di che tipo di Costituzione e soprattutto di che forma di Stato dotarsi. Furono tre generazioni di antifascisti, con la loro esperienza alle spalle, il loro percorso che partì dagli anni 20 fino alla caduta del fascismo, ad animare lo spirito della Costituente e la scrittura della Costituzione. C'erano gli antifascisti della prima ora, infatti, che all'epoca avevano sottovalutato il fascismo nascente e avevano visto il crollo dello Stato liberale. C'erano poi gli antifascisti cresciuti nell'emigrazione che aveva riformato i partiti in esilio e che aveva dato un contributo determinante anche alla guerra civile spagnola. E in più c'erano gli antifascisti, con l'antifascismo dei partigiani e delle partigiane, che avevano pagato con la vita il ritorno della democrazia e che erano cresciuti all'interno del regime fascista. Queste tre generazioni si incontrarono nell'Assemblea Costituente e lasciarono una traccia indelebile nel testo della Costituzione. Questo non fa altro che rafforzare l'idea di Palmiro Togliatti, per la quale la Costituzione si scrive tenendo conto di ciò che è accaduto, cioè del fascismo, diciamo. Tanto che la Costituzione nasce esattamente come antifascista. Nella Costituzione, infatti, c'è un continuo andare e vieni tra processo intellettuale, esperienza resistenziale e quotidianità vissuta sotto il regime. Perciò è un cosciente antifascismo ad animare, ad essere cemento dell'impresa. Un cemento che però sembra scomparire proprio al momento della chiusura dei lavori per la Carta, il 31 gennaio 1948, nell'atmosfera di profonda divisione, di scontro dato dalla Guerra Fredda. Dal punto di vista dei riferimenti, non è esistito un modello predeterminato, benché siano stati tenuti presenti i principali modelli costituzionali. Per esempio la Costituzione statunitense, quella del 1789, o la Dichiarazione dei diritti della Rivoluzione francese, che è coeva. Ancora la Costituzione di Weimar del 1919 e la Costituzione austriaca del 20, quella belga e quella spagnola del 1931. E i vari modelli di Costituzione varati in Francia, soprattutto quella del 1946. Che è una Costituzione lunga, cioè con obiettivi e principi fondamentali, e rigida, ovvero non modificabile da leggi ordinari, caratteri poi che vengono assunti, come sappiamo, dalla Costituzione italiana. Tra questi numerosi echi si ritiene però che la Costituzione austriaca e quella di Weimar abbiano influenzato più delle altre costituenti. Se in alcune parti la carta costituzionale sembra ridondante nel suo puntiglio e nella sua meticolosità, è perché si devono rigettare tutte le violazioni del fascismo e fare in modo che esso non ricompaia. I principi fondamentali parlano di uno Stato che non fa nessuna distinzione tra razza, religione e sesso. Quest'ultima postilla, molto importante, è stata fortemente voluta dalla partigiana socialista Lina Merlin, una delle 21 donne della Costituente. Ancora, l'articolo 16 esprime un diritto ovvio, cioè la libera circolazione e il soggiorno in qualunque parte del territorio nazionale, dal momento che la Costituzione aveva già riconosciuto i diritti inviolabili dell'uomo nell'articolo 2. Occorreva però riaffermare con forza questo rifiuto della pratica fascista, che era la pratica del confino di polizia per i reati politici, perché, in conseguenza di questo, erano stati 17.000 gli antifascisti costretti a soggiornare in località sperdute come Gaeta o Ponza, senza più avere la libertà di movimento all'interno dello Stato. Se si volesse però cogliere lo stigma, tra virgolette, uno stigma genetico della Costituzione, potremmo dire che essa è il frutto dell'accordo tripartitico dei movimenti di massa in Italia: la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e il Partito Socialista, i tre grandi partiti che hanno animato la Prima Repubblica. Famosa è la questione sull'articolo 1 della Costituzione. I costituenti comunisti volevano a tutti i costi cominciare la carta con: l'Italia è una repubblica fondata sui lavoratori. Ecco, è quel lavoratore, ad esempio, che già faceva molto discutere. Oggi sappiamo che la formula è fondata sul lavoro. Quel lavoratore, ad esempio, fu cassato a seguito di una serie di dispute perché aveva un eco troppo comunista e decisamente troppo classista. Rimanendo proprio sulla questione dello stigma genetico della Costituzione, possiamo dire che i principi generali, i diritti e i doveri dei cittadini che aprono la Costituzione hanno una duplice faccia. Da un lato indicano la direzione da percorrere, dall'altro possono essere anche letti come una denuncia di ciò che l'Italia non è, quindi di ciò che al paese manca, ma che si ritiene auspicabile possa essere costruito, e poi sappiamo quanto poi questo poco venga costruito, tanto che si parla ancora di una necessità di applicare pienamente la Costituzione. Il dettato costituzionale infatti si pone all'avanguardia, al punto che la Costituzione, almeno fino a metà degli anni 50, diciamo, stenta ad essere operante nelle istituzioni come nella società. Se non è proprio qualcosa di estraneo, la Costituzione si configura come un elemento che deve essere molto metabolizzato da ciò che sopravvive soprattutto del vecchio stato fascista e da una società che ancora si sta allontanando lentamente dal regime e da nuove tentazioni autoritarie. La Costituzione, insomma, stenta a permeare lo spirito della Repubblica, almeno fino a quando non entra in funzione la Corte Costituzionale nel 1956, autentico motore di avviamento della Carta Fondamentale e il solo organo che la possa rendere effettiva. I principi affermati dalla Costituzione restano un orizzonte alto e faticano nel tempo a scendere nelle istituzioni della società. Soprattutto pensiamo a alcune grandi istituzioni come la fabbrica, la scuola e la famiglia. Come sei bella! Ma torniamo all'aprile del 1948. L'unità antifascista sembra ormai un sogno, la Repubblica però è realtà. Ed è realtà da 2 anni, la Costituzione c'è, manca solo un governo e la partita è giocata da Togliatti e Gasperi. Lo scontro diventa acerrimo, stimolato anche, o soprattutto potremmo dire, dalle condizioni di crescente tensione internazionale tra USA e URSS. Viste le premesse, l'Italia liberata dalle forze alleate avrebbe dovuto automaticamente avere un governo liberale ed un'economia capitalista. Tuttavia la presenza del più forte partito comunista d'Europa e la collocazione geografica della penisola ha fatto sì che il profilo di questo nuovo Stato non fosse davvero così definito. La DC cresce e si solidifica proprio intorno all'anticomunismo, avendo alle spalle il sostegno morale, culturale e finanziario della Chiesa Cattolica. I comunisti, dal canto loro, avevano una capillare organizzazione territoriale, fatta dalle sezioni e la capacità di dar vita ad attività culturali e ricreative, soprattutto per donne e giovani. Togliatti puntava ad un partito nuovo, che non fosse solo quello degli operai, ma che divenisse anche dei contadini e dei ceti medi. Dal suo canto la DC offriva il sogno americano, automobili, radio nuove di zecca, sorrisi splendenti e una casa dotata di tutti i comfort. Mentre l'Unione Sovietica, la patria del socialismo reale uscita stremata dal conflitto, poteva offrire solo il sol dell'avvenire e nessun aiuto concreto se l'Italia fosse davvero diventata comunista. L'Italia della Resistenza era già un ricordo, forse era un incubo sfocato. Chissà se le ragioni del voto di massa alla DC del 18 aprile furono quelle appena elencate, oppure se non fu per le città tappezzate da manifesti con orchi con la bocca grondante di sangue o gorilla che sventolavano una minacciosa bandiera rossa. I risultati della consultazione comunque furono questi. Splendido risultato del 18 aprile. 27 milioni di votanti su 29 di iscritti. Votazione per la Camera dei Deputati. Fronte Democratico Popolare, circa 8 milioni di voti pari al 37%. Unione Socialista, circa 1.900.000, pari al 7,1%. Repubblicani, 2,5%. MSI, 2%. Blocco Nazionale, 3,8%. La maggioranza assoluta è andata alla Democrazia Cristiana con circa 12.700.000 voti, pari al 48,7%. Sempre ricostruendo il clima agitatissimo del 1948, non possiamo che ricordare un altro evento che avrebbe segnato in maniera determinante il clima politico del paese. Il 14 luglio, infatti, un neofascista ferisce gravemente Palmiro Togliatti, il segretario del partito. I comunisti vedono in questo gesto un attacco esplicito alla sinistra, un tentativo di ristabilire l'ordine e di mettere a tacere il Partito Comunista. Uno spontaneo movimento insurrezionale si diffonde a macchia d'olio in tutta Italia. Tutti si aspettavano la rivoluzione. La rivoluzione anche questa volta però non ci fu. E dopo questo salto un po' audace del 1948 noi ritorniamo al 24 marzo 2018. Vi ricordiamo qualche appuntamento. È in corso fino a domani al VAC 61 una montagna di libri. Stesso genere di appuntamento che consigliamo caldamente, una montagna di libri è sempre molto piacevole tanto per l'atmosfera quanto per i testi proposti. Stesso tipo di appuntamento al centro sociale TPO di via Casarini con la rassegna Enolibri, anche qui parecchie cose da andare a spulciare. Inoltre un paio di segnalazioni di libri che stanno per uscire. Il primo è di Alberto Prunetti, quello di Amianto. Esatto, uno scrittore che a noi sta molto molto simpatico e di cui apprezziamo tanto i lavori, le fatiche letterarie. Esatto, e l'ultima fatica appunto si chiama 108 metri, The New Working Class Hero. L'editore è La Terza. L'altro suggerimento è di un libro appena uscito, a proposito ancora di 50 anni dal 68. Marco Boato, che era uno dei leader della rivolta del 68 di Trento, scrive Il lungo 68 in Italia e nel mondo. L'editore è La Scuola Editrice. Settimana prossima non ci troverete perché siamo in clima di Pasqua, anche noi, quindi l'appuntamento è direttamente per sabato 7 aprile. In ogni caso potete fare riferimento al nostro sito www.radiovallun2o.info per trovare tutti i podcast e gli approfondimenti di questa puntata e delle precedenti. la nostra pagina Facebook Caso S trattino Vallun, sempre con due O, on air, per commenti, approfondimenti e magari anche chiacchiere. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey e Olga. Ciao, ciao.